ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. Attorno a Prato Fungo crescevano cespugli di menta piperita e siepi di rosmarino, e non si capiva se fosse natura selvatica o aiole d'un orto degli aromi. Io m'aggiravo col petto carico d'un respiro dolciastro e cercavo la via per raggiungere la vecchia balia Sebastiana. Da quando Sebastiana era sparita per il sentiero che portava al villaggio dei Lebrosi, io mi ricordavo più spesso d'essere orfano. Mi disperavo di non saper più nulla di lei. Mi chiedevo a Galateo, gridando arrampicato in cima a un albero quando lui passava. Ma Galateo era nemico dei bambini che alle volte gli gettavano addosso lucertole vive dalla cima degli alberi e dava risposte canzonatorie e incomprensibili con la sua voce melata e squillante. E ora in me, alla curiosità di entrare in Prato Fungo, s'aggiungeva quella di ritrovare la gran balia e giravo senza requie tra i cespugli odorosi. Ed ecco che da una macchia di timo s'alzò una figura vestita di chiaro, con un cappello di paglia, e camminò verso il paese. Era un vecchio lebroso e io volevo chiedergli della balia e avvicinandomi quel tanto che bastava per farmi udire, ma senza gridare dissi: «Ehi, là, signor lebroso!» Ma in quel momento, forse svegliata dalle mie parole, proprio vicino a me un'altra figura si levò a sedere e si stirò. Aveva il viso tutto scaglioso come una scorza secca e una lanosa rada barba bianca. Prese in tasca uno zufolo e lanciò un trillo verso di me come mi canzonasse. M'accorse allora che il pomeriggio di sole era pieno di lebrosi sdraiati, nascosti nei cespugli, e adesso si levavano pian piano nei loro chiari sai e camminavano controluce verso Prato Fungo, reggendo in mano strumenti musicali o da giardiniere, e con essi facevano rumore. Io m'ero ritratto per allontanarmi da quell'uomo barbuto, ma quasi finì addosso a una lebrosa senza naso che si stava pettinando tra le fronde d'un lauro, e per quanto saltassi per la macchia, capitavo sempre contro altri lebrosi e m'accorgevo che i passi che potevo muovere erano solo in direzione di Prato Fungo, i cui tetti di paglia, adorni di festoni d'aquilone, erano ormai vicini al piede di quella china. I lebrosi rivolgevano a me l'attenzione solo di quando in quando, con strizzate d'occhio e accordi d'organetto. Però mi sembrava che al centro di quella loro marcia ci fossi proprio io e mi stessero accompagnando a Prato Fungo, come un animale catturato. Nel villaggio le mura delle case erano dipinte di lilla e a una finestra una donna mezzo discinta con macchie lilla sul viso e sul petto, suonatrice di lira, gridò: «Son tornati i giardinieri!» e suonò la lira. Altre donne s'affacciarono alle finestre e alle altane, agitando sonagliere e cantando «Bentornati, giardinier!». Io badavo a tenermi nel mezzo di quella viuzza e a non toccare nessuno, ma mi trovai come in un crocicchio, con lebrosi tutt'attorno, seduti, uomini e donne, sulle soglie delle loro case, coi sai laceri e sbiaditi, dai quali trasparivano bubboni e vergogne, e tra i capelli fior di biancospino e anemone. I lebrosi tenevano un concertino che avrei detto in mio onore. Alcuni inclinavano i violini verso di me, con esagerati indugi dell'archetto, altri appena li guardavo facevano il verso della rana, altri mi mostravano strani burattini che salivano e scendevano su un filo. Di tanti e così discordi gesti e suoni era appunto fatto il concertino, ma c'era una specie di ritornello che si ripetevano ogni tanto. «Il pulcino senza macchia va per more, si macchiò». «Io cerco la mia balia», dissi forte. «La vecchia Sebastiana, sapete dov'è?» Scoppiarono a ridere con quella loro aria saputa e maligna. «Sebastiana!» gridai. «Sebastiana, dove sei?» «Ecco, bambino», disse un lebroso. «Buono, bambino!» e indicò la porta. La porta s'aperse e ne uscì una donna olivastra, forse saracena, seminuda e tatuata, con addosso code d'aquilone, che cominciò una danza licenziosa. Non capii bene cosa successe poi. Uomini e donne si buttarono gli uni addosso agli altri e iniziarono quella che poi, appresi, doveva essere un'orgia. mi feci piccino piccino, quando tutto a un tratto la gran vecchia Sebastiana si fece largo in quella cerchia. «Brutti sporcaccioni!» disse. «Almeno un po' di riguardo per un'anima innocente!» Mi prese per mano e mi tirò via mentre loro cantavano «Il puccino senza macchia va per more, si macchiò!» Sebastiana era vestita in panni viola chiaro, di foggia quasi monacale, e già qualche macchia deturpava le sue guance senza rughe. Io ero felice di aver ritrovato la balia, ma disperato, perché mi aveva preso per mano e attaccato certamente la lebbra, e glielo dissi. «Non aver paura», rispose Sebastiana. «Mio padre era un pirata e mio nonno un eremita. Io so le virtù di tutte le erbe contro le malattie, siano strane che moresche». Loro si stuzzicano con l'origano e la malva. Io invece, zitta zitta, con la borragine e il crescione mi faccio certi decotti che la lebbra non la piglierò mai finché campo. «Ma quelle macchie che hai in faccia, balia?» chiesi io, molto sollevato, ma non ancora del tutto persuaso. «Pece greca, per far loro credere che ho la lebbra anch'io. Vieni qui da me, che ti faccio bere una delle mie tisane calda calda, perché a girare in questi posti la prudenza non è mai troppa». M'aveva portato a casa sua una capannuccia un po' discosta, pulita, con la roba stesa, e discorremmo. «E Medardo? E Medardo?» mi interrogava lei, e ogni volta che parlavo mi toglieva la parola di bocca. «Ah, che briccone! Ah, che malandrino! Innamorato! Ah, povera ragazza! E qui voi non vi immaginate, sapessi la roba che sprecano! Tutta roba che ci togliamo noi di bocca per darla a Galateo! E qui sai cosa ne fanno?» «Già quel Galateo è un poco di buono, sai, un cattivo soggetto. E non è il solo. Le cose che fanno la notte e il giorno, poi. E queste donne delle svergognate così non ne ho mai viste, almeno sapessero aggiustare la roba. Ma neanche quello, disordinate straccione. Oh, io gliel'ho detto in faccia. E loro, sai cosa mi hanno risposto loro?» Molto contento di questa visita alla balia, l'indomani andai a pescare anguille. Misi la lenza in un laghetto del torrente e, aspettando, m'addormentai. Non so quanto durò il mio sonno, un rumore mi svegliò. Apersi gli occhi e vidi una mano alzata sulla mia testa e su quella mano un peloso ragno rosso. Mi girai ed era mio zio nel suo nero mantello. Balzai pieno di spavento, ma in quel momento il ragno morse la mano di mio zio e rapidissimo scomparve. Mio zio portò la mano alle labbra, succhiò lievemente la ferita e disse: «Dormivi e ho visto un ragno velenoso filare giù sul tuo collo da quel ramo. Ho messo avanti la mia mano ed ecco che m'appunto». Io non credetti neanche una parola. Già tre volte a dir poco aveva attentato la mia vita con simili sistemi, ma certo ora quel ragno gli aveva morso la mano e la mano si gonfiava. «Tu sei mio nipote», disse Medardo. «Sì», rispose un po' sorpreso, perché era la prima volta che mostrava di riconoscermi. «T'ho riconosciuto subito», lui disse, e aggiunse: «Ah, ragno, ho un'unica mano e tu vuoi avvelenarmela. Ma certo, meglio che sia toccato alla mia mano che al collo di questo fanciullo». Ch'io sapessi, mio zio non aveva mai parlato così. Il dubbio che dicesse la verità, che fosse tutto a un tratto diventato buono, m'attraversò la mente, ma subito lo scacciai. Finzione e tranelli erano abituali. Certo, appariva molto cambiato, con un'espressione non più tesa e crudele, ma languida e accorata, forse per la paura e il dolore del morso. Ma era anche il vestiario impolverato e di foggia un po' diversa dal solito a dar quell'impressione. Il suo mantello nero era un po' sbrindellato, con foglie secche e ricci di castagne appiccicate ai lembi. Anche l'abito non era del solito velluto nero, ma d'un fustagno spelacchiato e estinto. E la gamba non era più inguainata dall'alto stivale di cuoio, ma da una calza di lana a strisce azzurre e bianche. Per mostrare che non mi interessavo di lui, andai a guardare se mai un'anguilla avesse abboccato la mia lenza. Di anguille non ce n'era, ma vidi che infilato all'amo brillava un anello d'oro con diamante. Lo tirai su, e sulla pietra c'era lo stemma di Terralba. Il visconte mi seguiva con lo sguardo e disse: «Non stupirti. Passando di qui ho visto un'anguilla dibattersi presa all'amo e m'ha fatto tanta pena che l'ho liberata. Poi, pensando al danno che avevo col mio gesto arrecato al pescatore, ho voluto ripagarlo col mio anello, ultima cosa di valore che mi resta». Io ero rimasto a bocca aperta e Medardo continuò: «Ancora non sapevo che il pescatore eri tu. Poi t'ho trovato addormentato tra l'erba e il piacere di vederti si è subito mutato in apprensione per quel ragno che ti scendeva addosso. Il resto già lo sai». E così dicendo si guardò tristemente la mano gonfia e viola. Poteva darsi che fosse tutto un seguito di crudeli inganni. Ma io pensavo a quanto bella sarebbe stata una sua improvvisa conversione di sentimenti e quanta gioia avrebbe portato anche a Sebastiana, a Pamela, a tutte le persone che pativano per la sua crudeltà. «Zio», dissi a Medardo, «aspettami qui. Corro dalla balia Sebastiana che conosce tutte le erbe e mi faccio dare quella che guarisce i morsi dei ragni». «La balia Sebastiana», disse il visconte, stando sdraiato con la mano sul petto. «Come sta, dunque?» Non mi fidai di dirgli che Sebastiana non aveva preso la lepra e mi limitai a dire «così così, io vado» e corsi via, desideroso più di ogni altra cosa di domandare a Sebastiana cosa pensasse di questi strani fenomeni. Ritrovai la balia nella sua capannuccia. Ero affannato per la corsa e l'impazienza e le feci un racconto un po' confuso, ma la vecchia si interessò di più al morso che agli atti di bontà di Medardo. «Un ragno rosso, dici?» «Sì, sì, conosco l'erba che ci vuole. A un boscaiolo gonfiò un braccio una volta. È diventato buono, dici?» «Ma cosa vuoi che ti dica? È sempre stato un ragazzo così. Anche lui bisogna saperlo prendere». «Ma dove ho messo quell'erba? Basta fargli un impacco». «Un briccone fin da piccolo, Medardo. Ecco l'erba. Ne avevo messo in serbo un sacchettino. Però sempre così. Quando si faceva male veniva a piangere dalla paglia. È profondo questo morso?» «Alla mano sinistra gonfia così», dissi. «Ah, bambino!» rise la balia. «La sinistra? E dove ce l'ha, Mastro Medardo, la sinistra? L'ha lasciata là, in Boemia, da quei turchi, che il diavolo li porti. L'ha lasciata là, tutta la metà sinistra del suo corpo». «Eh già», feci io. «Eppure lui era lì, io ero qui, lui aveva la mano voltata così, come può essere?» «Non riconosci più la destra dalla sinistra adesso», disse la balia. «Eppure l'hai imparato fin da quando avevi 5 anni». Io non mi raccapezzavo più. Certo, Sebastiana aveva ragione. Io però ricordavo tutta l'incontrario. «Portagli quest'erba allora, da bravo», disse la balia. E io corsi via. Arrivai trafelato al torrente, ma mio zio non c'era più. Guardai dovunque intorno, era sparito con la sua mano gonfia e avvelenata. Veniva sera e giravo tra gli olivi. Ed ecco che lo vedo avvolto nel mantello nero, in piedi su una riva appoggiata a un tronco. Mi dava le spalle e guardava verso il mare. Io sentii la paura riprendermi e a fatica, con un fil di voce, riuscii a dire «Zio, qui è l'erba per il morso». Il mezzo viso si voltò subito, contratto in una smorfia feroce. «Che erba? Che morso?» gridò. «Ma l'erba per guarire», dissi. Ecco che quell'espressione dolce di prima gli era scomparsa. Era stato un momento passeggero. Ora forse lentamente gli tornava in un sorriso teso, ma si vedeva bene che era una finzione. «Sì, bravo. Mettila nel cavo di quel tronco. La prenderò più tardi», disse. Io obbedii e cacciai la mano nel cavo. Era un nido di vespe. Mi volarono tutte contro, presi a correre inseguito dallo sciame e mi buttai nel torrente. Nuotai sott'acqua e riuscii a disperdere le vespe. Levando il capo, udii la buia risata del visconte che s'allontanava. Una volta ancora era riuscito a ingannarci, ma molte cose non capivo e andai da dottor Triloni per parlargliene. L'inglese era nella sua casetta da becchino al lume d'una lucernetta, chino su un libro d'anatomia umana, caso raro. «Dottore», gli chiesi, «s'è mai dato che un uomo morso dal ragno rosso uscisse incolume?» «Ragno rosso, tu dici?» saltò sul dottore. «Chi ha ancora morso il ragno rosso?» «Il mio visconte zio», dissi. «E già gli avevo portato l'erba della balia quando, da buono che sembrava divenuto, è tornato cattivo e ha rifiutato il mio soccorso». «Orora ho curato il visconte dal morso d'un ragno rosso alla mano», disse Triloni. «E mi dica, dottore, le è parso buono o cattivo?» Allora il dottore mi raccontò com'era andata. Dopo che io avevo lasciato il visconte sdraiato sull'erba con la mano infiata, era passato di lì il dottor Triloni. S'accorge del visconte e, preso come sempre da paura, cerca di nascondersi tra gli alberi, ma Medardo ha sentito i passi e s'alza e grida «Ehi, chi è là?» L'inglese pensa «Se scopre che sono io che mi nascondo, chissà che cosa malmanacca contro!» e scappa per non essere riconosciuto, ma inciampa e cade nel laghetto del torrente. Pur avendo passato la vita sulle navi, dottor Triloni non sa nuotare e starnazza in mezzo al laghetto e grida aiuto. Allora il visconte dice «Aspetta me!» e va sulla riva. Scende nell'acqua tenendosi appeso con la sua mano dolorante a una radice dell'albero che sporge. S'allunga finché il suo piede può essere afferrato dal dottore. Lungo e sottile com'è, gli fa da corda perché lui possa raggiungere la riva. Ecco che sono in salvo e il dottore balbetta «Oh, oh, milord!» «Grazie, vero, milord, come posso...» E gli starnuta in faccia, perché si è preso un raffreddore. «Salute a lei», dice Medardo, «ma si copra, la prego», e gli mette il suo mantello sulle spalle. Il dottore si schermisce, confuso più che mai, e il visconte gli fa «Tenga, è suo». Allora Triloni s'accorse della mano gonfia di Medardo. «Quale bestia l'appunto?» «Un ragno rosso». «Lasci che la curi, milord». E lo porta alla sua casetta da becchino, dove acconcia la mano con farmachi e con vende. Intanto il visconte discorre con lui pieno d'umanità e di cortesia. Si lasciano con la promessa di rivedersi presto e rafforzare l'amicizia. «Dottore!» dissi io dopo aver ascoltato il suo racconto. «Il visconte che lei ha curato è tornato poco dopo, in preda alla sua crudele follia, e m'ha sdindato contro un nugolo di vespe!» «Non quello che ho curato io!» disse il dottore e strizzò l'occhio. «Che vuol dire, dottore?» «Saprai in seguito. Ora non farne parola ad alcuno. E lasciami ai miei studi, che si preparano tempi contrastati». E il dottor Triloni non si curò più di me. Risprofondò in quella inconsueta sua lettura del trattato d'anatomia umana. Doveva avere un suo progetto in testa e per tutti i giorni che seguirono rimase reticente e assorto. Ma da più parti cominciavano a giungere notizie d'una doppia natura di Medardo. Bambini smarriti nel bosco venivano con gran loro paura raggiunti dal mezz'uomo con la gruccia che li riportava per mano a casa e regalava loro fichi fiori e frittelle. Povere vedove venivano da lui aiutate a trasportar fascine. Cani morsi dalla vipera venivano curati. Doni misteriosi venivano ritrovati dai poveri sui davanzali e sulle soglie. Alberi da frutta sradicati dal vento venivano raddrizzati e rincalzati nelle loro zolle prima che i proprietari avessero messo il naso fuori dell'uscio. Nello stesso tempo, però, le apparizioni del visconte mezzo avvolto nel mantello nero segnavano tetri avvenimenti. Bimbi rapiti venivano poi trovati prigionieri in grotte ostruite da sassi. Frane di tronchi e rocce rovinavano sopra le vecchiette. Zucche appena mature venivano fatte a pezzi per solo spirito malvagio. La balestra del visconte da tempo colpiva solo più le rondini. E in modo non da ucciderle, ma solo da ferirle e da storpiarle. Però... ora si cominciavano a vedere nel cielo rondini con le zampine fasciate e legate a stecche di sostegno o con le ali incollate o incerottate. C'era tutto uno stormo di rondini così bardate che volavano con prudenza tutte assieme, come i convalescenti d'un ospedale uccellesco, e inverosimilmente si diceva che lo stesso Medardo ne fosse il dottore. Una volta un temporale colse Pamela in un distante luogo incolto con la sua capra e la sua anatra. Sapeva che lì vicino era una grotta, seppur piccola, una cavità appena accennata nella roccia, e vi si diresse. Vide che ne usciva uno stivale frusto e rabberciato, e dentro c'era rannicchiato il mezzo corpo avvolto nel mantello nero. Fece per fuggire, ma già il visconte l'aveva scorta, e uscendo sotto la pioggia scrosciante le disse «Riparati qui, ragazza, vieni!» «No che non mi ci riparo», disse Pamela, «perché ci si sta appena in uno, e voi volete farmici stare spiaccicata!» «Non aver paura», disse il visconte. «Io resterò fuori e tu potrai stare a tuo agio al riparo insieme alla tua capra e alla tua anatra. Capra e anatra possono prendersi anche l'acqua. Vedrai che ripariamo anche loro». Pamela, che aveva sentito raccontare degli strani accessi di bontà del visconte, si disse «Vediamo un po'» e si raggomitolò nella grotta, serrandosi contro le due bestie. Il visconte, ritto lì davanti, teneva il mantello come una tenda in modo che non si bagnassero neppure l'anatra e la capra. Pamela guardò la mano di lui che teneva il mantello. Rimase un momento sovrappensiero. Si mise a guardare le proprie mani, le confrontò l'una con l'altra e poi scoppiò in una gran risata. «Sono contento che tu sia allegra, ragazza», disse il visconte. «Ma perché ridi, se è lecito?» «Rido perché ho capito quel che fanno dar matti tutti i miei compaesani». «Cosa? Che voi siete un po' buono e un po' cattivo. Adesso tutto è naturale». «E perché?» «Perché mi sono accorta che siete l'altra metà. Il visconte che vive nel castello, quello cattivo, è una metà. E voi siete l'altra metà, che si credeva dispersa in guerra e ora invece è ritornata. Ed è una metà buona». «Questo è gentile, grazie». «Oh, è così. Non è per farvi un complimento». Ecco dunque la storia di Medardo come Pamela l'apprese quella sera. Non era vero che la palla di cannone avesse sbriciolato parte del suo corpo. Egli era stato spaccato in due metà. L'una fu ritrovata dai raccoglitori di feriti dell'esercito, l'altra restò sepolta sotto una piramide di resti cristiani e turchi e non fu vista. Nel cuor della notte passarono per il campo due eremiti. Non si sa bene se fedeli alla retta religione o negromanti, i quali, come accade a certuni nelle guerre, s'erano ridotti a vivere nelle terre deserte tra i due campi e forse, ora si dice, tentavano d'abbracciare insieme la Trinità cristiana e l'Allah di Maometto. Nella loro bizzarra pietà, quegli eremiti, trovato il corpo dimezzato di Medardo, l'avevano portato alla loro spelonca e lì, con balsami e unguenti da loro preparati, l'avevano medicato e salvato. Appena ristabilito in forze, il ferito s'era commiatato dai salvatori e, arrancando con la sua stampella, aveva percorso per mesi e anni le nazioni cristiane per tornare al suo castello, meravigliando le genti lungo la via coi suoi atti di bontà. Dopo aver raccontato a Pamela la sua storia, il mezzo visconte buono volle che la pastorella gli raccontasse la propria. E Pamela spiegò come il Medardo cattivo la insidiasse e come ella fosse fuggita di casa e vagasse per i boschi. Al racconto di Pamela, il Medardo buono si commosse e divise la sua pietà tra la virtù perseguitata della pastorella, la tristezza senza conforto del Medardo cattivo e la solitudine dei poveri genitori di Pamela. «Quelli poi», disse Pamela, «i miei genitori sono due vecchi malandrini. Non è proprio il caso che li compiangiate». «Oh, pensa a loro, Pamela, come saranno tristi a quest'ora, nella loro vecchia casa senza nessuno che li badi e faccia i lavori dei campi e della stalla». «Rovinasse sulle loro teste la stalla», disse Pamela. «Comincio a capire che siete un po' troppo tenerello. E invece di prendervela con l'altro vostro pezzo per tutte le bastardate che combina, pare quasi che abbiate pietà anche di lui». «E come non averne? Io che so cosa vuol dire essere metà d'un uomo, non posso non compiangerlo. Ma voi siete diverso. Un po' tocco anche voi, ma buono». Allora il buon Medardo disse: «Oh, Pamela, questo è il bene dell'essere dimezzato. Il capire d'ogni persona e cosa al mondo la pena che ognuno e ognuna ha per la propria incompletezza. Io ero intero e non capivo, e mi muovevo sordo e incomunicabile tra i dolori e le ferite seminati dovunque, laddove meno da intero uno osa credere. Non io solo, Pamela, sono un essere spaccato e divelto, ma tu pure, e tutti. Ecco, ora io ho una fraternità che prima da intero non conoscevo, quella con tutte le mutilazioni e le mancanze del mondo. Se verrai con me, Pamela, imparerai a soffrire dei mali di ciascuno e a curare i tuoi curando i loro». «Questo è molto bello», disse Pamela, «ma io sono in un gran guaio con quell'altro vostro pezzo che si è innamorato di me e non si sa cosa vuol farmi». Mio zio lasciò cadere il mantello perché il temporale era finito. «Anch'io sono innamorato di te, Pamela». Pamela saltò fuori della grotta. «Che gioia! C'è l'arcobaleno in cielo e io ho trovato un nuovo innamorato, dimezzato anche questo, però d'animo buono». Camminavano sotto rami ancora stillanti per sentieri tutti fangosi. La mezza bocca del visconte s'arcuava in un dolce e incompleto sorriso. «Allora, cosa facciamo?» disse Pamela. «Io direi d'andare dai tuoi genitori, poverini, aiutarli un po' nelle faccende». «Vacci tu se ne hai voglia», disse Pamela. «Io sì che ne ho voglia, cara», fece il visconte. «E io resto qui», disse Pamela, e si fermò con l'anatra e la capra. «Fare insieme buone azioni è l'unico modo per amarci. Peccato, io credevo che ci fossero altri modi. Addio, cara, ti porterò della torta di mele». E s'allontanò sul sentiero a spinte di stampella. «Che ne dici, capra? Che ne dici, anatrina?» fece Pamela, sola con le sue bestie. «Tutti i tipi così devono capitarmi». Da quando fu noto a tutti che era tornata l'altra metà del visconte, buona quanto la prima era cattiva, la vita a Terralba fu molto diversa. Al mattino accompagnavo il dottor Triloni nel suo giro di visite ai malati, perché il dottore a poco aveva ripreso a praticare la medicina e s'era accorto di quanti mali soffrisse la nostra gente, cui le lunghe carestie dei tempi andati avevano minato la fibra, mali di cui non s'era mai prima dato cura. Andavamo per le vie di campagna e vedevamo i segni che mio zio ci aveva preceduti. mio zio il buono, intendo, il quale ogni mattina faceva anche egli il giro non solo dei malati, ma pure dei poveri, dei vecchi, di chiunque avesse bisogno di soccorso. E non c'era pecora che si spezzasse gambe in burrone, non bevitore che traesse coltello in taverna, non sposa adultera che corresse notte tempo ad amante che non se lo vedessero apparire lì, come piovuto dal cielo, nero e secco, e col dolce sorriso, a soccorrere, a dar buoni consigli, a prevenire violenze e peccati. Pamela stava sempre nel bosco. S'era fatta un'altalena tra due pini, poi una più solida per la capra e un'altra più leggera per l'anatra, e passava le ore a dondolarsi assieme alle sue bestie. Ma a una certa ora, arrancando tra i pini, arrivava il buono, con un fagotto legato alla spalla. Era roba da lavare e rammendare che lui raccoglieva dai mendicanti, dagli orfani e dai malati soli al mondo, e la faceva lavare a Pamela, dando modo anche a lei di far del bene. Pamela, che a star sempre nel bosco s'annoiava, lavava la roba nel ruscello e lui l'aiutava. Poi lei stendeva tutto a asciugare sulle corde delle altalene, e il buono, seduto su una pietra, le leggeva la Gerusalemme liberata. A Pamela della lettura non importava niente, e se ne stava sdraiata in panciolle sull'erba, spidocchiandosi, perché vivendo nel bosco s'era presa un bel po' di bestioline, sbadigliando, sollevando sassi per aria con i piedi scalzi e guardandosi le gambe che erano rosa e cicciose quanto basta. Il buono, senza alzar l'occhio dal libro, continuava a declamare un'ottava dopo l'altra, nell'intento di ingentilire i costumi della rustica ragazza. Ma lei, che non seguiva il filo e s'annoiava, zitta, zitta, incitò la capra a leccare sulla mezza faccia il buono e l'anatra a posarglisi sul libro. Il buono fece un balzo indietro e alzò il libro, che si chiuse. Ma proprio in quel momento il gramo sbucò di tra gli alberi al galoppo, brandendo una gran falce tesa contro il buono. La lama della falce incontrò il libro e lo tagliò di netto in due metà per il lungo. La parte della costola restò in mano al buono e la parte del taglio si sfarse in mille mezze pagine per l'aria. Il gramo sparì galoppando. Certo aveva tentato di falciar via la mezza testa del buono, ma le due bestie erano capitate lì al momento giusto. Le pagine del tasso, con i margini bianchi e i versi dimezzati, volarono sul vento e si posarono sui rami dei pini, sulle erbe e sull'acqua dei torrenti. Dal ciglio d'un poggio Pamela guardava quel bianco svolare e diceva: «Che bello!» Qualche mezzo foglio arrivò fin sul sentiero per il quale passavamo il dottor Triloni e io. Il dottore ne prese uno al volo, lo girò e rigirò. Provò a decifrare quei versi senza capo o senza coda e scosse la testa. «Ma non si capisce niente!» Manuela Mandracchia ha letto Il Visconte dimezzato di Italo Calvino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.